24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Ma qui dovremo fare un master per cercare di capire che succederà. Che succede ora? Non si capisce più niente. Cari italiani, buongiorno. Sono le 6:33 minuti. Siamo in diretta come sempre fino alle 9. Questo è 24 mattino. E siamo pronti a fare che cosa? Ad aprire il nostro bar, che è bar in onda. Bar condicio non esiste più. Qua bisogna cambiare le insegne. Il caffè volentieri a tutti quanti. Dobbiamo cambiare le insegne quotidianamente quasi. Bar condicio. Basta, ha perso fortunatamente di appeal. La par condicio non c'è più. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, più o meno abbiamo sempre detto. E c'è già chi ride. Ma cosa ride? Allora presento prima Paola Saluzzi. Perché qualcuno buongiorno, mi ha detto Alessandro, qualcuno buongiorno. Mi ha scritto no. Su Twitter, ma la galanteria, si presentano prima le donne, mamma ma mia. Ma è una questione di essere cavalieri. Proporrei anche barattiamo oltre che bar condicio. Barattiamo sì, ma cosa parecchio e che cosa tempi. Tipo dei posti di governo. Paola Saluzzi è con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno Paola. Buongiorno direttore. Barattolo, sì. Potete inviate anche via SMS al 349-238-6666. Come lo chiamiamo il nostro bar? Dopo bar in onda, bar condicio. Adesso barattiamo. Baratto è più bello, sì, baratto, vedi, baratto, direttore. Baratto. Ma allora, voi avete capito cosa succede, Luca Dini? Hai capito? Ti sei svegliato in un paese nuovo e hai capito dove andiamo? No, io non ho capito dove andiamo, però non sono sicuro che non mi piaccia dove andiamo, se devo essere onesto. Io sono ottimista per natura, mi sembra comunque che questo Parlamento sia tendenzialmente migliore di quello che sostituisce. Ma sai che anch'io oggi ci pensavo e la prima cosa che ho twittato è stata mi sa che andiamo poi a una possibile intesa tra il PD e i grillini, perché questo si è capito ieri da Bersani. Come novità non è male, cioè nel senso, non lo so, vediamo, proviamo, buttiamoci italiani. Paola, ti butti anche tu? Allora, qualsiasi scossone, se preso positivamente, ha un suo valore. Ci buttiamo, si deve. Ieri ha avuto anche la benedizione da un Dario Fo che ha detto Quirinale, no grazie, insomma. Meno male che almeno lui è rinsavito. Anche se i santi ottantenni, secondo me, i meravigliosi ottantenni sono tutti quanti da prendere in considerazione. Si può andare verso sai soprattutto cosa, nel senso direttore, si deve andare verso qualcosa di nuovo, quindi di conseguenza andiamo. Andiamoci. Luca, Dario Fo al Quirinale, io ieri ho detto, però sai che bei discorsi di fine anno. Questo è un cammino, questo è un cammino italiano. Sarebbe in che lingua parla, no? Della sua lingua, Sarebbe no, stato... credo che lui abbia, saggiamente detto che non è quello che vuole. Ma c'ha anche 87 anni, ma io capisco. Ma diciamo, Napolitano 87 anni non può fare un altro mandato. Ma 87 più 7 quanto fa? 94, ma dai! Siamo sicuri? Siamo sicuri che non farà un altro mandato, magari per un anno, due anni? Napolitano! Mamma mia, ragazzi. Ma siamo partiti dicendo che dobbiamo buttarci, cambiare, rinnovare. Non lo so, vabbè. Grandi vecchi devono stare a capotavola. Ma per carità, sì, ma stia a capotavola. Nessuno gli toglie il posto da capotavola. Lo invito a casa mia e lo metto a capotavola, se volete. Allora vi devo far sentire ieri Crozza. Non so se l'avete visto. Si è presentato come agghindato da Bersani. E sentite un po' Crozza. Non abbiamo vinto, ma siamo arrivati prima. Ragazzi, che è un po' come dire alla bella del paese, non me l'hai data, ma mi è piaciuto lo stesso. Cioè, può sta qua, ragazzi. L'altro giorno mi sono lanciato nella previsione, ragazzi. Ho detto, qua bisogna parlare chiaro. O vincono loro, o vinciamo noi. Ho azzeccato solo la O. Oh, oh. Ragazzi, è sta qua qua. C'è mica qui a chiedere la patente nautica, no, ragazzi. Se te vuoi dare o fuori al Quirinale, ce lo mettiamo. Enzo Iannacci agli esteri, va benissimo, ragazzi. Grillo, adottami. Grillo. Vabbè, ma è straordinario, Luca. Ieri ha raggiunto dei livelli non male, con questo Grillo adottami. Tanto devo dire che ho lanciato questa cosa, sembrava uno scherzo, invece sono arrivati un fottio di messaggi. Ecco. Baraonda, Barcollo, Barbone, anche ci suggeriscono. Barcogliamo. Vabbè, Baraonda è abbastanza ricorrente. Baratro, ecco, questo anche Baratro non è male. Baracca Italia, Barcollato, Baraonda però è quello più. Barabba, non lo so, Bareggio, che è un paese qua in provincia di Milano, un po' tutti. Allora, c'è anche questa ipotesi, per tornare un attimo seri, c'è qualcuno all'interno del Partito Democratico, come per esempio il sindaco di Bari Emiliano, che dice sia Grillo a indicare il premier, addirittura. Cioè, Luca Dini, ti pare addirittura che si possa arrivare a questo tipo di collaborazione? Cioè, il primo partito, d'altronde alla Camera, è il Movimento 5 Stelle, tolte le coalizioni. Sì. Ma addirittura... Però non mi sembra questa la modalità, cioè, non ha senso, anche perché... Grillo e il Movimento hanno detto chiaramente: noi appoggeremo le cose che ci piacciono, però insomma, parlare di prezzo non mi sembra un bel inizio. Sì, però cioè, come te la vedi? Cioè, allora, Bersani ha l'incarico, facciamo uno scenario: Bersani riceve l'incarico dopo le consultazioni da Napolitano e fa un governo, non so, mette ministro degli esteri D'Alema, ministra della sanità Rosi Bindi, ecco, cioè, quanto può vivere? Arriva la prima fiducia e che succede? Il Movimento 5 Stelle vota qualcosa del genere? Beh, evidentemente deve consultarsi, io penso che debba consultarsi con esponenti, e non so a questo punto chi sarà il portavoce, chi sarà per il Movimento 5 Stelle, però deve consultarsi e orientare il suo programma su cose che possano essere condivisibili. Per esempio, finalmente forse vedremo la riforma della legge elettorale. Io me l'aspetto molto molto attivamente, perché se non la fanno questa volta veramente vuol dire che non la vuole, che la vogliono solo i grillini. No, infatti. E poi semplicemente ascoltarli, anche perché un altro dato secondo me che non è stato forse abbastanza sottolineato è che il SEL ha avuto un risultato abbastanza modesto. Sì. Forse, infatti subito hanno detto bisogna fare l'alleanza col Grillo, che è l'unico modo per sopravvivere da parte di Vendola, no? Sì, quindi è logico. Allora, ascoltare Grillo, voglio dire, si è sempre detto che questo governo sarebbe stato ostaggio di SEL, eccetera, eccetera, forse sarà ostaggio, ma poi non vedo perché bisogna metterla così negativamente, ma semplicemente vigilato dal Movimento 5 Stelle. Sì, Paola, tu come la vedi? C'è una collaborazione? Perché ieri Grillo ha fatto anche una semi apertura, ha detto: ma noi non siamo mica il modello Sicilia, è quello buono, per esempio. No, sì, c'è Crocetta. Ieri Grillo ha fatto questa conferenza stampa davanti a casa sua, sì, la quale mi hanno colpito, e hanno, presumo, non solo a me, e i toni molto pacati. Quindi questo già, voglio dire, fa vedere un cambio rispetto chiaramente alla forza che ha trascinato tutto lo tsunami tour. Era un'apertura: noi non siamo il male, non siamo quelli che vogliono distruggere il mondo. Si può aprire, credo che nelle parole di Emiliano ci sia anche una sorta di sfida, almeno io la leggo anche così. Benissimo, sì. Se tu indichi il premier, poi dopo però vediamo, insomma. È certo. È chiaro che ora sono tutti lì a voler vedere se sappiano ballare, no? Siete arrivati fino al ballo a corte, però adesso vediamo se sapete ballare. Sicuramente siamo di fronte a un'idea di un tandem, mi trovo in linea, ma non per dire una cosa diversa o non volerla dire, con il direttore Dini, siamo di fronte ad un tandem che deve avere il tempo di iniziare a muoversi. Grillo potrebbe dimostrare di essere molto più saggio, per saggio intendo dire molto più capace di quanto la ma gente secondo lo me vede lo come sarà palazzo, cioè, vedi, il tempo delle urla è già, come dici tu giustamente, è già finito, già ieri se sembrava, è finito, sembrava la prima cosa della riforma della legge elettorale, vabbè, la prima anche perché ovviamente Alessandro ma mi viene a stuzzicare ma mi viene a stuzzicare a me, cioè con la riforma elettorale adesso inizio già il conteggio, siamo alla prima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ovviamente tu sei come sono le 8 e tutto va bene, è ovvio, no? Dai l'ora ogni ora. Però prima di tutto quello, allora mettiamoci subito alla prova su questo, vediamo che cosa siano in grado di fare insieme su questo e per carità immediatamente riforma della legge elettorale. Tra l'altro io bisogna guardare avanti, certo, ma io ancora lo voglio dire per un giorno, poi non lo dirò mai più. Ma perché non hanno messo Matteo Renzi? E Bersani che dice: più delle primarie cosa dovevo fare? Non bisognava farle le primarie. Un partito serio diceva: noi vogliamo cambiare, noi guardiamo avanti, noi guardiamo al futuro. Il nostro candidato si chiama Matteo Renzi. Non si sarebbe. Si potevano fare le primarie, però se avessero detto quello che dici tu, il candidato ufficiale della segreteria è Matteo Renzi. Ma certo, ma avrebbe vinto Matteo Renzi. Ma certo, ma dice: ma non si sarebbe candidato Berlusconi, ma nulla contro Berlusconi, ma per dire il paese avrebbe guardato avanti. Tra l'altro Berlusconi ieri quando ha sentito del governo di scopo ha detto questo già mi piace, come pare era una battuta, non voglio fare battute. Ecco la Saluzzi ha riso ci ha messo un po' ma è venuta malissimo, no, allora. Io mi trattenevo, facevo finta di essere una signora ecco. E dicevo adesso mi spiegheranno cosa voglia dire e sì, beh, insomma l'ironia non manca ecco quello che Bersani pare abbia detto: non ci sarà questo governissimo, cioè PD PDL, ecco, infatti io credo che tra l'altro ieri Crozza ha detto sarebbe bello si mettono insieme a fare il governissimo quelli che sono stati mandati a fanculissimo da Beppe Grillo. Comunque vi suggerisco anche che ci propongono Barlume per chi è ottimista come nome, ma bello. Anche chi è pessimista, Bara. Cioè questo, no. Bara, vabbè. 24 mattino. Caro Milan, io Berlusconi non l'avevo mai votato e questa volta invece l'ho fatto ed è stato l'unico che ha parlato di cose che interessano veramente alla gente, che ne dicano tutti gli ipocriti degli altri partiti. Ciao Milan, sono Claudio, sono un camionista veronese. No, io sono arrabbiato perché quello che mi fa arrabbiare è che con quelle promesse false che ha fatto Berlusconi ha avuto un sacco di voti, perché il fatto di restituire l'IMU, secondo me, a tantissime persone che non ne frega niente della politica hanno pensato bene di farsi restituire l'IMU. Io mi auguro che Berlusconi lo faccia, se no altrimenti è veramente da denuncia. Il paese è ingovernabile, bene, così nessuno farà danni. Pronto? Niente, perché al posto dell'IMU, la restituzione dell'IMU, a Berlusconi non hanno chiesto la restituzione che gli italiani versano per l'Alitalia? Bersani è un pollo! Caro Milan, hai visto dove il centrodestra ha fatto il pieno? Nelle regioni dominate dalla mafia, dalla camorra, dall'andrangata? La comunione e liberazione che in fondo è lo stesso. Alessandro, cambiare il motto da mani sul volante a mani sulle palle e stringergliele forte fin quando non gli scoppiano. Vabbè, non so se lo faremo. Già mi fa male l'idea. Allora siamo con Paola Saluzzi di Sky TG24 pomeriggio e Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Allora vi devo dire questo: sapete quanto è il TFR? Sapete che ci sono dei trombati che non sono stati rieletti, no? Tra Fini, Di Pietro. Il TFR, il trattamento di fine rapporto, Fini percepirà 260.000 euro netti, via, così. Come liquidazione, Di Pietro 60.000, Franco Marini del PD 188.000, Emma Bonino 60.000. Ebbene, no, Luca. Sì, però devo dire che almeno in uno di questi casi, che non voglio dire quale, li pago volentieri. Secondo me è uno Fini, forse? No. posso dire. No, come non puoi? No, Di Pietro. Diciamo allora. Se non... No, di... no, no. E vabbè, a dillo, no. Dai. Sono già 24, cioè... No, quello che volevo non dire paghiamo è... volentieri quello di Emma Bonino, che sarebbe stato bello, no, continuare ad avere come nostro rappresentante, rappresentante all'ONU per le donne, come lotta contro la violenza sulle donne nel mondo, insomma. Lo so, ma i radicali sono fuori, stesso, sono fuori i radicali. Ha ragione Paola. Quello che volevo aggiungere a proposito di chi esce e chi entra è solo questo. Ci si fanno tante domande su che cosa sapranno fare i nuovi del Movimento 5 Stelle, non hanno esperienza, ma nessuno si ricorda di chi c'era prima, e purtroppo sì, e di quello che ha fatto. A me quello, cioè, voglio dire, ecco, ti posso dire a chi avrei pagato volentieri la liquidazione, che sono Scilipoti e Razzi. Che ero ancora dentro, mi fa veramente storico. Vabbè, però adesso sono pochi, chissà, no, spero che possano fare pochi danni. Però vi devo far sentire questa. A RDS, quindi parliamo della concorrenza, c'è uno straordinario imitatore di Niki Vendola, che ieri, facendo Vendola, ha chiamato Bersani e gli ha detto: ti dico cosa mi ha detto Casaleggio del possibile accordo. Sentite. Secondo quello che ci eravamo detti per questa apertura a Grillo, ho ricevuto risposta con una lettera da Casaleggio. Sì. Non so, te la mando o te la leggo? Leggila. In realtà è una canzone, te la canto. Proviamo lo stesso, dai. Pinuccio, vai con la base, vai. Malinconia, tutti nell'angolo, tutti che piangono, toccano il fondo con Melandrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. Cioè, e poi, per tante ma immaginatevi Bersani, la reazione. Tra l'altro, ringrazio veramente RDS, non si conosce la reazione di Bersani. Ha messo giù, ma d'altronde avete sentito come era scazzato? Sì, dimmi, dai, Vendola, dimmi, dai, leggimi, cantamela, va bene. E non si capisce, forse ha messo giù, evidentemente si è accorto dello scherzo. Lo speriamo, non lo so. Comunque sono straordinarie RDS quando fanno queste imitazioni. Allora, io davanti alla copertina di Vanity Fair, devo dire, allora, premessa. Luca, io non ho mai visto mezzo secondo di Masterchef. È un danno? È grave? Miriam Lucchetti mi guarda già dall'altra parte, sei un rimbambito. Io non so neanche cosa sia, però vivo bene. Cioè... Ah, ma no, dico vivo bene. Vabbè, comunque la copertina di Vanity Fair non c'è tanto Cracco, ma c'è la donna, la compagna di Cracco. Paola, hai capito? È fidanzato. Non... La fortunata. Infatti, è bello. È ruvidone, però cucina bene. La sera quando torni a casa non devi dire tesoro, cosa ti preparo? Ma prepara tutto lui. Ragazzi, sono biglietti da lotteria. Paola, che racconta lei che la prima volta che lui è entrato in casa sua ha aperto il frigo e le ha detto: da oggi in poi non cucinerai mai più. Io ho capito che ero fritta. No, ma, Dove sono questi uomini? Ascolta, incontro Luca, incontro con la donna più invidiata d'Italia. La donna più invidiata d'Italia perché sta con Cracco, adesso con massimo rispetto. Ma perché la donna? Ma cos'ha di così? A volte si esagera. Ma cos'ha di così? Vabbè, è un bel uomo, questo senza dubbio. Sa cucinare due cose abbastanza bene, questo ma... non c'è nulla. No, vabbè, non lo mettiamo in dubbio, ma è così uno strafigo. Paola, è così uno strafigo. Insomma, innanzitutto, non avete mai visto Masterchef? Voi che non avete mai visto Masterchef? Io. Insomma, io mi metto la casacca Sky e chiaramente parlo del prodotto. E uno. E due, è invidiato perché è un bellone, sì, che sa di essere bellone, per cui sì, si rende ancora più bellone. Ma soprattutto, io vado al sodo, sa cucinare. Ragazzi, per una donna è importante. Guardate, è una cosa fondamentale. È un binomio irresistibile. È bello e sa cucinare. Luca, è così. Allora avete azzeccato la copertina. Io ho detto: ma come l'uomo più affascinante? Speriamo. No, dai, Luca, è il momento così in cui bisogna costruire un paese, bisogna avere ottimismo. Allora, Baruffa non sarebbe male il nome del nostro. Baruffa non sarebbe male, però. Baruffa. Barella. Perché anche Uffa.

A Scalfarotto, allora, è un bel casino, eh? Che succede? Intanto è un bel casino. Allora, la prima domanda è: condivide Bersani quando dice siamo primi ma non abbiamo vinto? Cioè, avete vinto, avete perso, siete primi, ma come la mettiamo? No, non abbiamo vinto, secondo me. Siamo arrivati primi, abbiamo preso più voti degli altri, ma le nostre aspettative, io poi penso che in genere nella vita la felicità e l'infelicità si misurano sulle proprie aspettative, no? Se succede qualcosa in più di quello che ti aspettavi sei contento, succede qualcosa di meno, e in questo caso è successo qualcosa di meno, nel senso che noi ci aspettavamo di poter governare e in questo momento al Senato non c'è una maggioranza, il che non è tanto un problema per il Partito Democratico, è un problema grosso per il paese. Per l'Italia. E poi un'altra cosa da segnalare è che Grillo ha preso 8 milioni di voti, 8 milioni 700 mila voti, una cosa del genere, che sono un'enormità. Se io ho provato a figurarmi 8 milioni di persone che escono di casa per mettere una croce sul simbolo di 5 Stelle, mi ha fatto impressione. E ha fatto impressione? Che tipo di impressione? Cioè, cosa direbbe a quegli 8 milioni li avesse davanti 8 milioni 700 mila persone? Ma io a quegli 8 milioni dico che loro hanno espresso un bisogno assolutamente legittimo e comprensibile. Dopodiché io sono in difficoltà, nel senso che non per le persone, né per gli eletti, né per i votanti, però diciamo Grillo è una delle cose più lontane dalla mia cultura politica, ma non direi neanche politica, dalla mia cultura civile. Io ho vissuto per tanti anni all'estero per lavoro e ho tanti amici che mi chiamano da fuori e mi dicono: ti abbiamo chiesto di spiegarci Berlusconi per 20 anni, adesso ci spiegheresti qualcosa di chi è questo Grillo? Ma come? Cioè, nel momento in cui Bersani fa una apertura a Grillo, cioè ha detto no il governissimo, quindi con il PDL, lei condivide no al PDL? Condivido. E invece però ha fatto un'apertura a Grillo, anche perché di lì non si scappa, una qualche apertura a qualcuno, altrimenti... Ma a me pare che abbia fatto un'apertura eventualmente agli eletti di Grillo, che una bella differenza, attenzione. Io gli eletti di Grillo li ho visti in faccia adesso perché nessuno li conosceva e mi sembrano persone normali che incontri tutti i giorni per la strada. Grillo mi sembra invece un signore che su un palco, su una piazza, a un certo punto dice: siete circondati, e io francamente mi sono anche chiesto se ce l'aveva con me, perché anche se mi circondassero io francamente quello è il modo, non ha nulla da fare, alza le mani e basta. Ma mi compiaccio di essere circondato, ma non credo di aver nulla da cui difendere. Però non crede che quello sia stato il modo per anche gestire la situazione? Cioè, ha visto che già Grillo ieri ha cambiato anche modo di rapportarsi, è uscito, addirittura ha parlato con dei giornalisti. Ma guardi, qui il problema è molto semplice, rispetto alla situazione per esempio in Sicilia, dove gli eletti di Grillo in qualche modo collaborano, votano di volta in volta per provvedimenti proposti da Crocetta, il Presidente. In questo caso in Parlamento bisogna votare la fiducia, cioè Bersani secondo me fa benissimo e dice: io mi presento al Parlamento con una serie di proposte, chi le vuole votare le vota, però... Prima di far questo, per poter lavorare, un governo ha bisogno della fiducia, che è un voto un po' a priori. Certo, no? Infatti questo è il punto fondamentale. Allora, facciamo un esempio, perché infatti tutti sfuggono, non capiscono questo dettame principe della Costituzione. Bersani alla fine avrà l'incarico di formare un governo. Facciamo un'ipotesi. Chi deve mettere, secondo lei, al governo per ottenere anche dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle una fiducia? Rosi Bindi? D'Alema? Io credo che il governo, diciamo, posto che non abbiamo raggiunto una maggioranza al Senato, sarà molto diverso dal governo che eventualmente si aveva in mente prima delle elezioni. È ovvio che questo governo dovrà essere un governo di grandissima discontinuità, come credo anche questa legislatura debba esserla. A me ieri mi ha chiamato un po' di gente dicendo: no, questa sarà una legislatura molto breve. Io ho detto: ma può anche darsi che sia una legislatura invece molto importante, perché potrebbe essere una specie di legislatura costituente, e cioè per poter effettivamente tenere insieme questo Parlamento bisognerà fare delle riforme talmente ficcanti e talmente innovative quasi da risultare una sorta di punto e a capo anche nella vita della nazione. Questo non sarebbe un bene? Almeno questo? Forse sì, io penso questo. Io credo sempre che i grandi problemi rivelino delle grandi opportunità, dipende un po' da come tu le vedi. Allora, posto che noi ci troviamo davanti a una situazione estremamente frammentata, io mi auguro che Bersani abbia l'abilità, che tra l'altro io credo che abbia, di inventarsi uno schema completamente nuovo, perché questa situazione può essere gestita soltanto con uno schema quasi rivoluzionario, se possiamo dire, se ingroia non se ne ha male, se uso questa parola. E tanto non c'è, quindi che problema c'è? Lui in Parlamento... No, era una battuta. Non credo si offenda, certo, anche la mia. Senta, quindi a lei piace, non piace Grillo, ma invece guarda con rispetto i rappresentanti di Grillo. Ma sì, io ecco, mi auguro che loro intendano... comprendano di essere classe dirigente. Ah, io anch'io vengo, non ho fatto una carriera politica, io vengo dalle professioni, dalla società civile, però una volta che si diventa parlamentari si diventa rappresentanti della nazione e questo richiede un impegno, una responsabilità. Sentivo dire che loro vogliono nominare il capogruppo alla Camera e al Senato con una rotazione trimestrale. Sì. Ebbene, è una cosa difficile, nel senso che il capogruppo alla Camera e al Senato è un mestiere complicato e, che richiede anche poi un minimo di abilità tecniche che si acquisiscono col tempo e quindi quello che io chiedo loro è di fare i parlamentari rispettando l'istituzione, cioè l'istituzione richiede che anche sarebbe, se tu eri non una catalinga prima, sì. Oggi sei una parlamentare, no, certo. Una leader del paese. Ma perché lei vede in un non rispetto dell'istituzione il fatto per esempio di dire uno vale uno, le cose che dicono loro, ci cambiamo ogni tre mesi il portavoce, poi non li chiami onorevoli per carità, perché poi si offendono. Ma ecco, io sono molto rispettoso dell'istituzione parlamentare e considero questa mia elezione una responsabilità e un onere, però so anche che queste 945 persone che sono state elette rappresentano la nazione. Ma questo senza dubbio. Senta, però Scalfarotto, adesso c'è un capitolo da aprire che è quello di Matteo Renzi. Lei era un sostenitore di Renzi. Ha letto, Renzi è in un silenzio tombale, fa bene secondo lei a stare in silenzio adesso? Direi di sì, nel senso che sta parlando il segretario del partito, ed è il nostro leader ed è quello che si deve fare. E però tutti dicono, se ci fosse stato Renzi avremmo stravinto, lei condivide? Ma si diceva un tempo, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola. Adesso il tema è che Renzi si è sottoposto a una primaria dove io l'ho sostenuto con tutto il mio affetto e la mia stima e l'abbiamo persa. E quindi se volevamo vincerla bisognava, perché tanta gente anche lì sento dire volevo votarlo, poi non l'ho votato, non ho votato al primo turno e mi sono sbagliato, non ho votato al secondo. Noi io credo abbiamo avuto una grande opportunità non solo di votare per Matteo Renzi, che è una persona estremamente capace, carismatica, abile e innovativa, ma soprattutto di guardare una politica fatta in un altro modo. Io credo che se c'è stato un limite, un errore, è stato quello di scandalizzarsi che la politica potesse parlare al di là degli steccati. Ma infatti non è che, cioè, lei non vuole imputare, non so, al suo partito, certo non si fa la storia con i sei, con i ma a dire forse non si dovevano fare le primarie, cioè, ma a dire noi guardiamo avanti e noi, Partito Democratico, diciamo che il nostro candidato premier è Matteo Renzi. Perché? Perché guardiamo al futuro. Guardi Milan, esattamente il ragionamento che io ho fatto quando ho deciso di appoggiare Renzi. Io sono stato l'unico dirigente nazionale del partito che ha appoggiato Matteo Renzi e non è stato facilissimo. Io, tanto per dirle, sono stato candidato al numero 13 in Puglia essendo il vicepresidente nazionale del partito. Cioè l'hanno messa là sperando che... No, io penso che tutti sperassero che io fossi eletto, però insomma non sono stato capolista a casa mia, diciamo. Tutti. Sì, ma insomma poi alla fine tutti sanno che sono un ragazzino con la, diciamo, indipendente ma una brava persona. Però il tema è che lì bisognava veramente fare un'operazione non di difesa dell'esistente, non di diciamo un'operazione che guardava dentro, ma provare a pensare che, per esempio, prendere voti all'avversario non è un problema, prendere voti all'avversario è esattamente l'obiettivo della politica. Invece noi probabilmente, se c'è stato, diciamo, un limite, è stato quello di essere molto protettivi di ciò di buono che noi siamo. Però forse non bastava. È mancato il coraggio, il buttarsi. Penso alle elezioni siciliane, guardi, già le elezioni siciliane, più della metà dei siciliani non era andato a votare. Grillo era già il primo partito della Sicilia, erano già degli scricchiolii evidentissimi. Ecco, sulla base di quegli scricchioli forse bisognava provare a fare un'apertura laterale di creatività, provando a guardare la società italiana con occhi completamente nuovi. I partiti e la creatività, ma Scalfarotto, la creatività... Gli ho detto che io sono un ragazzino indipendente. Infatti, ma voglio dire, quindi che succede adesso? Secondo lei, perché si vocifera anche questo, Bersani si dovrebbe dimettere? Non in questo momento, francamente. Io penso, noi abbiamo un congresso nel 2013 e quindi secondo me il congresso dovrà mettere al centro della discussione esattamente questo. Ma lui ha già detto mi faccio da parte, cioè non nel sì, prossimo sì, ma guarda che Bersani è una persona estremamente seria e Bersani giustamente si aspetta di fare il Presidente del Consiglio, comunque il 2013 era la fine del suo mandato di segretario, però io credo che al di là della persona Bersani, visto e considerato che andiamo al congresso e che forse non dobbiamo andare al congresso in settembre-ottobre, il congresso bisogna farlo subito, bisognerebbe pensare e mettere al centro del congresso un'idea di questo partito in questo tempo, che è un tempo nuovo e il partito non può che avere diciamo degli occhi e un cuore nuovo, bisogna insomma, essere visionari, radicali, innovativi, aprirsi. Quindi insomma il messaggio di Scalfarotto è: Renzi, scaldati e togliti la tuta, perché tra poco, diciamo, è stato fatto un errore, ma adesso basta. Sì, ma non è per necessariamente Renzi, io so benissimo, Matteo non se ne avrebbe male, ripeto, non deve essere necessariamente lui personalmente, ma deve essere quel tipo di energie delle quali lui fa sicuramente parte. Lui dice che vuole fare il sindaco di Firenze, io lo rispetto, ma penso che al di là della sua persona, al di là delle persone di ciascuno, perché tutti dobbiamo essere utili ma nessuno indispensabile, noi dobbiamo proseguire su quella strada. Per concludere, Scalfarotto, è vero che con la a Milano si dice, se mio nonno avesse il trolley sarebbe un tram, che lo capiscono magari a Milano, ma se ci fosse stato Renzi avreste vinto però? Se ci fosse stato Renzi io penso che non si sarebbe candidato Berlusconi, non si sarebbe candidato Monti. Penso che molte persone che normalmente non votano a sinistra avrebbero considerato seriamente di farlo. Sarebbe stato uno scenario diverso. Questo sì, questo senza dubbio. Intanto in bocca al lupo, vedremo cosa succederà anche per il nuovo Parlamento. Non picchi grillini, non li chiami onorevoli. Non li chiami neanche grillini, perché pare che anche grillini non si possa dire. Li chiami per nome e cognome. Ma questo va benissimo. Va bene. Grazie Ivan Scalfarotto per essere stato con noi. Partito Democratico, neoeletto deputato e vicepresidente del partito. Noi ci fermiamo per 5 minuti e poi 800 24 00 24 proseguiremo insomma questa analisi di quello che è il dopo voto, che scenari si propongono e si pongono. Governissimo pare di no, apertura del Partito Democratico al Movimento 5 Stelle. 24 mattino. Allora eccoci qua, le 8:34 minuti. Poco fa Ivan Scalfarotto ci ha detto: è mancata anche una visione, manca una visione per il futuro nel Partito Democratico. Questo è un po' anche il problema che abbiamo dovuto pagare. E che succede ora? Governissimo, governicchio, governetto, niente governo. Napolitano si trincera dietro un no comment. Sono i partiti che devono fare le loro valutazioni. Io tirerò le conclusioni al termine delle consultazioni. Tutto giusto, tutto corretto dal punto di vista istituzionale. Ma che succede ora? Ne vogliamo parlare con il professor Massimo Cacciari, che saluto. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche Gianfranco Rotondi, che è stato rieletto nel Popolo della Libertà in campagna. Buongiorno Rotondi. Buongiorno, salve. Benvenuto. Senta, professor Cacciari, lei ha fatto una definizione urticante ieri del Partito Democratico. Gliela vorrei chiedere anch'io, perché ce la lasci scolpita in audio. Non me la ricordo mica. Sono due giorni che chiacchiero sull'argomento. Sul Fatto Quotidiano è uscito anche in titolo. Cosa sono quelli del PD? Ma sa, adesso francamente parlare del latte versato mi cade la lingua, cosa vuole? Sono anni che predico su ciò che il Partito Democratico avrebbe dovuto, dovrebbe fare. Ora si tratta di parlare del paese, perché siamo una svolta davvero che potrebbe diventare tragica. Il paese è in una situazione tale per cui non può stare senza una classe politica che lo diriga, e le classi politiche che l'hanno diretto finora hanno fatto un evidente fallimento tutte. Quindi si tratta ora veramente di pensare in positivo, perché fare critica ancora, insomma, è come sparare sui feriti o sui morti. Poi il problema è vedere se è possibile un colpo di reni, perché è veramente una classe politica derelitta, insomma, derelitta. Se il titolo era Teste di, ecco, diciamo, giusto per... Sì, cosa vuole, insomma, è stato un momento di sfogo dopo, subito dopo il voto, perché perdere in una situazione di questo genere, in una gara dove l'altro, dove quello che concorre con te è peggio che azzoppato, riuscire a perdere, perché ha perso, al di là di ogni discussione, veramente quasi incredibile, quasi miracoloso. Ma detto questo, cosa vuole? Insomma, adesso si tratta veramente di vedere se c'è la possibilità di dare a un paese una situazione almeno transitoria di una certa stabilità, se no saremmo veramente travolti anche dalla speculazione internazionale, eccetera. Io penso che prospettive di governissimi non esistano, non è possibile, perché questo significherebbe lo sfascio definitivo del Partito Democratico, che oggi è, tutto sommato, è la forza che deve fare la prima mossa. E se il Partito Democratico come prima mossa proponesse un governissimo, immediatamente si sfasciano con Vendola, si sfasciano all'interno e la situazione diventa obiettivamente ancora più difficile per tutti. Però questo Bersani pare l'abbia già escluso, invece ha aperto a Grillo. Sì. A Grillo invece ha aperto. Ma sì, ma è l'unica prospettiva che credo realistica sia quella, cioè una prospettiva alla siciliana in cui si accorda con Grillo su alcune cose specifiche determinate, si riescono a realizzare dalla alcune leggi di base che segnino poi tratti di civiltà per questo paese, alcune cose sulla giustizia, sul conflitto di interessi e dare segnali di tranquillità e di stabilità all'opinione pubblica internazionale, agli altri paesi che ci guardano ovviamente con enorme preoccupazione, ecco, dare alcuni segnali di stabilità, di ragionevolezza, tutto sommato. Io credo che questa sia l'unica prospettiva realistica. Naturalmente è molto precaria, me ne rendo conto benissimo. Ma è chiaro. E quindi con ogni probabilità, certamente anche questa è una legislatura che non finirà, ma certo che andare a votare con questa stessa legge elettorale tra tre mesi è la roulette russa, perché potrebbe essere anche che la gente dice mi spavento, voto i partiti maggiori, non so, ma potrebbe essere anche che Grillo va al 50%. Certo. Io francamente se sciolgono il Parlamento tra tre mesi, si dimostrano così irragionevoli, si torna a votare tra tre mesi, voto Grillo anch'io. Basta a questo punto. Allora giochiamo veramente alla rivoluzione, la facciamo finita. Questa è un po' l'ipotesi che pensano molti. Vorrei, onorevole Rotondi, voi ci credete a questo governissimo? Perché Bersani è stato molto chiaro, si riposassero un po', come dire, quelli no. E voi che siete quelli, come reagite a questa chiusura pare immediata di Bersani? Veda, lei usa un voi che non so con quale categoria mi include. Se per voi intende il popolo delle libertà, io gradisco di essere tra quelli che si riposano, come dice Bersani, solo che consiglierei un po' di riposo anche a lui, visti i risultati. Lo so, però voglio dire, la chiusura pare molto netta nei confronti di questo governo. Lei ci crede all'idea di un governissimo? Veda, il governissimo dovremmo avere da una parte Moro e dall'altra Berlinguer, non circolano nemmeno fotocopie più o meno allestibili. La verità è che il Partito Democratico, prima CIP, DS, DS, come nella sequenza che Berlusconi ricorda, persegue da un ventennio la linea che fu scolpita dall'onorevole D'Alema all'indomani della cosiddetta discesa in campo di Berlusconi. E cioè un centro-sinistra, che è poi la formula storica che ha dato governabilità a questo paese, perché vorrei ricordare che il demonizzato pentapartito non era che un centro-sinistra, laddove la sinistra era in parte comunista, in parte socialista, e la Democrazia Cristiana utilizzava la sinistra ammissibile a un governo. Lei un po' lo rimpiange quel tempo? Ma no, un po' ce lo tolga. Ritengo che fosse la formula giusta per dare a questo paese delle opportunità. Rotondi, ma poi dicono molti e scrivono che non capite quello che è successo. Cioè, un attimo, mi faccia partire dal centro-sinistra. D'Alema ha pensato sempre che questo paese dovesse essere governato da un centro-sinistra. Qual è l'errore che poi caratterizza tutta la presunzione della sinistra italiana, che il centro se lo organizzassero loro, cioè la sinistra erano loro e fin qui ci può stare. Il centro lo volevano fabbricare. Siccome nel 94 il centro democristiano, liberale, socialista si è riorganizzato sotto Berlusconi, può piacere, non piacere, a me è piaciuto, a D'Alema no, hanno sostituito al codice dei Camaldoli le regole della Fininvest, sono passati da Piazza del Gesù alla Standa, facessero tutte le ironie che vogliono, ma il dato di fatto è che il centro in Italia è stato Berlusconi, ossia l'alternativa alla sinistra non fascista, per capirci. Sì. Bene, loro, rifiutando questo dato che veniva dalle urne, dalla società, dalla politica, dal palazzo, hanno fabbricato una sequenza di centri, dal Partito Popolare, a Dini, a Mastella, Margherite, Marini, non mi ricordo manco più tutti, fino all'ultima esperienza. Oggi la politica grida la vendetta delle sue ragioni. Pensa se Grillo, pensa se Grillo la stesse ascoltando in questo consegna momento. Consegna un paese diviso in tre. No, ma il dico... fronte antipolitico di Grillo o politico in modo diverso. D'Alema, nel senso del partito che dovrebbe essere perno di questo centro-sinistra, con un centro che oggi sta allo 0,7 di Tabacci, a cui va l'onore delle armi perché ha avuto il coraggio di fare quello che Casini non ha nemmeno fatto, e dopodiché c'è ancora Berlusconi. Allora il discorso è semplice: o loro fanno un'unione della gauche formato Bagaglino con Grillo ed è la via su cui camminano, con tutto il rispetto spero per loro e per il paese, che funzioni. O se vogliono fare il centro-sinistra, il governissimo, il governo in cui ci sta il popolo delle partite IVA e i rappresentanti dei lavoratori, devono parlare con Berlusconi. Con Berlusconi. Cacciari, lei ha seguito insomma tutta questa analisi? No, perché se Grillo in questo momento si fosse messo all'ascolto di Radio 24, cosa avrebbe pensato di questa analisi? Insomma, Grillo, altro a cui pensare. Sulla storia di questo ventennio... Bisognerebbe stare due ore con calma, è inutile ragionare a battute su questa tragedia di questo ventennio, sulle responsabilità degli uni e degli altri. Sono un ventennio buttato via e continuiamo a buttare via. Il problema adesso, ripeto, a me non interessa fare le storie, interessa capire come si può dare una prospettiva a questo paese, almeno transitoria, ma insomma di una certa... E lei ha già detto bisogna guardare a Grillo, però mi scusi, professor Cacciari. Grillo è una cosa complessa. Grillo non è assolutamente un eversivo, per nostra fortuna. Credo che con un risultato del genere anche lui dovrà assumere atteggiamenti responsabili. Credo che su alcune questioni possa trovare un accordo con coloro che dovranno fare per forza la prima mossa, avendo grazie a questa legge elettorale sciagurata una stramaggioranza alla Camera, dovranno fare però fare una delle prime mosse è formare un governo. Cioè, quale governo lei vede che potrebbe essere appoggiato con la fiducia, che è il primo atto al Senato, dai grillini? Un governo che con D'Alema, con Rosi Bindi, con Veltroni? Questo sarà il dramma per il Partito Democratico, capisce? Perché per avere la fiducia dei grillini dovranno fare un governo che difficilmente potrà, come pensavano, come sicuramente Bersani pensava, assommare al suo interno tutto l'apparato di questo partito, perché se avessero vinto chiaramente tutto l'apparato, l'apparato che poi ha fatto fuori Renzi, con il quale il risultato sarebbe stato completamente diverso, volenti nolenti. Quindi quell'apparato lì non è più presentabile, ma sarà dura per Bersani predisporre un governo tale da essere da un lato serio, molto serio, rappresentativo, se non altro a livello internazionale, e dall'altro farlo digerire, e dall'altro tale da permettere a Grillo di votarlo, di astenersi, non so, qualcosa che comunque permetta il varo del governo. Sarà a questo punto veramente una quadratura del cerchio. Anche perché dare la fiducia e, che ne so, cadere al primo provvedimento perché la fiducia viene tolta, perché c'è qualcosa che non va, sarebbe un vero disastro, ma disastro proprio di fronte agli occhi del mondo, non solo dei mercati finanziari. Allora, Massimo Cacciari e Gianfranco Rotondi. Rotondi, senta, ci vuole spiegare secondo lei qual è il motivo del successo della rimonta di Silvio Berlusconi? Perché inevitabilmente è stato così e bisogna riconoscerlo. C'è un successo clamoroso. Qualche mese fa si dava per sparito quasi il centrodestra, era anche sparito un po' in retroguardia Berlusconi. Poi si è messo in campo per l'ennesima volta e ha conquistato negli ultimi due mesi sicuramente tanti voti. Qual è secondo lei il legame magico da questo punto di vista tra alcuni italiani e Silvio Berlusconi? Lei mi spiega il motivo del successo per cui la DC ha vinto dal 48 al 92? Io penso che la formula sia la stessa. Berlusconi ha riassunto il voto che andava alla Democrazia Cristiana e ai suoi alleati in un'Italia diversa, ovviamente. È stato l'alternativa alla sinistra, quella affidabile, nessuno ci ha provato oltre lui, ci ha provato lui, e quando lui ha detto guardate che io all'anagrafe ho 77 anni, me ne sento 30, se uno che ha qualche anno in meno vuole sfidare questi qui che vogliono tornare, io sono pronto ad appoggiare tutti, persino il professor Monti che ha fatto disastri, ma che se insieme a noi allestisce una proposta politica alternativa alla sinistra, ha le capacità per correggerli. Di fronte a questo la sfida non se l'è filata nessuno ed è tornato lui e l'Italia si è fidata di lui. C'è da aggiungere probabilmente che in Italia la sinistra somma meno elettori di quelli che le sono contrari, quindi è abbastanza agevole rimontare quando ci si colloca dalla parte che coincide con la maggioranza degli elettori. Sì, io sarò pedante e ripetitivo, non lo so, forse il professor Cacciari mi seguirà su questo, ma quanto manca in questo l'assenza di Matteo Renzi, quanto pesa. È vero che hanno fatto le primarie, ma insomma, ma se ci fosse stato Renzi non ci sarebbe stato Berlusconi, che si è ricandidato solo perché ha vinto Bersani, non ci sarebbe forse stato Mario Monti, o no, professor Cacciari? Sto immaginando un'Italia un po' troppo in là. È del tutto evidente, credo, a qualunque persona seria che con Renzi le cose sarebbero andate diverse. Dubito che però Berlusconi non sarebbe sceso in campo comunque. Perché Berlusconi Renzi? Non importa, senza di lui in un modo o nell'altro, ma senza di lui erano spacciati, evidente. La differenza essenziale che sicuramente Rotondi sa benissimo con la Democrazia Cristiana è una differenza essenzialissima. La Democrazia Cristiana era un partito, è un partito con tanti leader dentro, è un partito che aveva una sua struttura, un suo radicamento ideale, eccetera. Ma il Popolo delle Libertà è la persona, infatti, tolto lui, cioè, non è che la Democrazia Cristiana crepava se non c'era Moro, se non c'era Fanfani, se non c'era il centrodestra è Silvio Berlusconi. Ma il centrodestra è Berlusconi, è un partito personale, è una cosa completamente diversa, non c'entra niente con la Democrazia Cristiana. La cosa su cui Rotondi ha ragione è che questo paese, questo è il Partito Democratico e chi per lui non insista a non capirlo, questo è un paese che non potrà mai votare una sinistra-sinistra, una sinistra-sinistra, come si è presentato Bersani con Vendola, non potrà mai votarla. E se ci fosse stato Renzi l'immagine sarebbe stata diversa, non sarebbe stata un'immagine di sinistra-sinistra e probabilmente, con Renzi le cose sarebbero andate diversamente, Berlusconi o non Berlusconi. Però insomma, chissà, questo non si può dire e forse si potrà dire tra sei mesi, questo staremo a vedere. Non si può fare, è un'opinione, insomma, poi chissà... Quale un'opinione? Perché sarebbe andata diversamente? No, diversamente, no, ma no, chissà... No, non è un'opinione, questa è un'assoluta certezza. Ma è anche la mia opinione, però voglio dire... È chiaro che con Renzi sarebbero intercettati molti voti grillini, gliene potrei citare qualche centinaio di conoscenze personali, è chiaro che la rimonta di Berlusconi sarebbe stata comunque estremamente più difficile, perché fare una campagna elettorale contro il proprio figlio è estremamente complicato come immagine, come tutto, e il risultato sarebbe stato un risultato sicuramente completamente diverso. Cioè Renzi è il figlio di Berlusconi, secondo lei? Ma no, Renzi è figlio di Berlusconi e dal punto di vista generazionale, non dal punto di vista ideale. Ecco, no, perché sa, voglio dire, meglio precisarlo. Meglio precisarlo perché accusano Renzi di essere in realtà quasi contro il proprio nipote. Era una questione solo generazionale. Generazionale. Va bene. Sentiamo Andrea da Roma che ci ha chiamato. Andrea, buongiorno. Salve, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo dire che avrei votato molto volentieri Matteo Renzi, perché per me Matteo Renzi era il simbolo del cambiamento. Sì. Ma lei, lei è un elettore del PD? Cioè un, no, del PD, è Alleanza Nazionale. Alleanza, cioè lei è storicamente l'Alleanza Nazionale, ma avrebbe votato Renzi. Okay. Sì, ma perché mi dava l'idea del cambiamento, perché mi dava l'idea del rinnovamento. Sì, e ha votato invece, visto che Renzi non c'era? Chi ho votato? L'altro, l'idea del rinnovamento, quindi Grillo. Grillo, ha votato Grillo. Sì, perché dietro al PD ci vedevo soltanto la vecchia Finocchiaro e tutti quegli altre persone che ormai incarnano la politica da 5-10 anni e continuano a parlare di cambiamento. Cioè, se non ci sei riuscito in dei 5-10 anni in cui sei stato, è inutile che ci continui a riprovare. Anche di più di 5-10. Sì, ma quando sentivo dire Buttiglione che si parlava di cambiamento, Buttiglione, che da che mi ricordo me ne parlava mio padre. Quindi dice ha deciso il cambiamento, lo decido io col Movimento 5 Stelle. Grazie Andrea, rimarrei a Roma da Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scuso con l'audio, però non sono riuscito a fermarmi, sono per strada. Vorrei sapere, vorrei porre una questione, quindi sarei curioso del parere del professor Cacciari in merito alla chiave di lettura del risultato elettorale, che io non vedo così negativo, cioè nel senso che adesso ci sarebbero i numeri belli larghi per fare una bella riforma elettorale, qualche riforma utile soprattutto nell'ambito della politica, mettere a posto un po' di problemi aperti sui quali convergono sia PD che 5 Stelle e poi riandare, che so, ad ottobre di nuovo alle elezioni. Lei dice vede numeri larghi, larghi se si mettono insieme, se fanno un'alleanza. Però almeno sulla carta sia il PD sia il Movimento 5 Stelle sono entrambi interessati ad una riforma elettorale. Quindi perché non sfruttare una situazione sgombra, cioè il tavolo è sgombro dai dubbi che si avevano. Insomma, per lei c'è un'opportunità. C'è un'opportunità. Professor Cacciari, l'ascoltatore ottimista, dice in realtà PD e Movimento 5 Stelle hanno una piattaforma sulla quale potremmo mettersi insieme e recuperare quei 158 senatori necessari. Guardi, intanto vorrei sottolineare la telefonata precedente, che è assolutamente esemplare. Io potrei citare centinaia di casi miei personali di persone che hanno fatto esattamente quel ragionamento, chiuso, quindi non c'è dubbio alcuno che non è un'opinione che con Renzi sarebbe andata diversa, e su questo faccio autocritica, sia chiaro, perché appunto non ho appoggiato Renzi per le primarie, non sono andato a votare per le primarie, un po' di snobismo intellettuale, un po' di roba, ma insomma, è stato sottovalutato il pericolo del ritorno di Berlusconi, e quindi vabbè, chiuso il discorso. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, sì, sulla carta, ma è totalmente sulla carta, bisogna capire perché non puoi pensare a un governo che fa soltanto la legge elettorale, ci sono grandi questioni economiche, finanziarie, la posizione che Renzi ha assunto, che Grillo ha assunto in questa campagna elettorale su queste questioni fondamentali per il paese, a volte sono state chiacchiere, a volte demenzialità, a volte puramente battute, scemenze, ma Grillo non ha tirato fuori una mezza parola sul programma economico finanziario di questo paese, quindi chissà cosa può succedere. No, ma è chiaro, comunque bisogna cercarlo l'accordo con Grillo, non c'è niente da fare. Si fermi qui sul bisogna cercarlo, mi devo fermare anch'io, ho sforato 10 secondi, grazie a Rotondi, grazie a Cacciari, trovate tutto sul sito radio24.it, a domani.